c'è una casa bianca che io mai più la scorderò. Mi è rimasta dentro il cuore come la mia gioventù. Era tanto tempo fa. Casa bianca che...